Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. L'ASL ha fatto nient'altro che il proprio dovere, cioè ha riservato ai giocatori del Napoli lo stesso trattamento che viene riservato a ogni cittadino in Campania. Poi, per quanto riguarda la sentenza, è una sentenza limpida come una scodella di bagna cauda, diciamo così. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Leao salta l'avversario, ecco il traversone per Zlatan. Ibrahimovic, doppietta di Ibra. Io credo che ci sia la volontà di adattarsi a un calcio più europeo. Facendo così è chiaro che rischi qualcosa di più dietro, ma dobbiamo anche esaltare lo spettacolo. Serve di più la mentalità di cercare di fare un gol più degli altri piuttosto di subirne uno in meno. Osimhen va vuoto Romero, Osimhen il tiro dalla distanza, Osimhen cala il poker in Napoli. Però l'Atalanta è una di quelle squadre che può vincere il campionato, perché un'altra squadra oggi ne prendeva 6 o 7. Guarda solo Carles Perez, salta tutti, Carles Perez, zona tiro, Carles Perez! Mamma mia! È 5-2. Chi pensa che la Serie A è un campionato difensivo, questa giornata è una prova di che il calcio è un calcio offensivo e è molto positivo per il calcio, per l'immagine del calcio italiano. Okay, innanzitutto ringrazio Claudia Schiattone che mentre andava alla copertina di Gianmarco Ferronato era qui a mettermi a posto il computer, se no non capivo più niente, e quindi grazie. Magari c'è Pierluigi Pardo che vuole fare un radio tweet sulla bagna cauda la napoletana, non so. No, forse poi parliamo della bagna cauda. Il mio radio tweet napoletana. È su quello che tutti stanno sottolineando in queste ore, cioè tanti gol. Ci può essere un cambio di tendenza, di mentalità, può essere, non ne sono così certo, provendo più per l'idea invece che sia il calcio dell'era del mezzo lockdown, il calcio senza pubblico, lo diceva lo zio Bergomi l'altra sera a proposito di Inter Milan, se poi ci sono più errori si cercano anche più giocate e questo in qualche modo rafforza l'idea che non è soltanto stereotipata, non è solo retorica del fatto che il pubblico nel calcio non è solo uno spettatore. È una componente fondamentale dello spettacolo. Adesso che si gioca davanti a 970, 950, 1000 persone, c'è un clima secondo me un po' diverso, un po' più da partitella del giovedì, anche se poi la vostra in palio è tanta, però si cercano di più le giocate, c'è qualche errore in più, la soglia d'attenzione in certi casi scende e vengono fuori delle partite, non solo in Italia, perché abbiamo visto anche il Liverpool, il Tottenham l'altro giorno a 3-0, 3-3, cioè ci sono, l'elemento della variabilità è assolutamente presente e sicuramente si segna di più. Sì, è una serie di concause. Sì, esatto. Però io credo che questa sia fondamentale, perché comunque 70.000 persone non riesce a riprodurle. No, chiaro. È la mente umana, è il fattore umano. Se vuoi è una cosa molto romantica questa. Comunque sì, giocare Inter Milan davanti a 900 persone non è come giocarlo davanti a 80.000, anche se poi ti stanno guardando tutti lo stesso. Sì, no, lo so, però è quasi quella energia che cala dagli spalti che ti arriva addosso, perfino se stessero zitte, comunque la senti e quindi magari, non so, zio Bergamo dice... difensori portati a sbagliare di più, può essere che gli attaccanti siano più lucidi perché non sentano la pressione del pubblico, i portieri Nando Orsi, ciao Nandone. Ah, buongiorno a tutti. Ciao. No, vi ricordate quando si diceva il giocatore del giovedì? Il giovedì fa benissimo, poi la domenica non si sa per quale motivo. Ecco, questo potrebbe essere uno dei momenti dove dove ci sono giocatori che se non sentono la balaustra di San Siro, esatto, lo stadium della Juventus, l'Olimpico e tutto quanto, anche se sbagliano una volta nessuno gli dice niente, vabbè tanto abbiamo sbagliato, si ricomincia, cioè, non c'è la pressione, capito? Però questo non vuol dire, perché poi dopo alla fine Ibrahimovic fa gol sempre, quelli che fanno gol sempre, bravo, le squadre esatto, più importanti. Esatto, cioè, esatto. Però questo può essere, questo può essere una, questo può essere un, sai, ci sono i giocatori che sentono di che sentono di più, sì, di altri. Assolutamente sì. No, e poi per esempio pensa alla squadra, alla capolista. Salutiamo la capolista. La capolista di oggi è una squadra che secondo me legittimamente ha saputo sfruttare l'assenza del pubblico. Cioè io sono assolutamente convinto che il Milan abbia fatto tutto bene negli ultimi mesi. Ibra, vabbè, di che stiamo parlando? Giocatore incredibile, cioè incredibile, questa previsione che abbiamo beccato, Questo c'era pubblico, Bonicchi, pubblico c'era, non pubblico è la stessa cosa per Ibrahimovic. Se, ah, lui, se lui 200 mila gli importa niente. Non so niente, forse è uno dei pochi anzi, che in allenamento giovedì, anzi, in allenamento durante la settimana non fa mai gol, hai capito? No. Però voglio dirti che secondo me invece nel periodo post lockdown, quello diciamo di quest'estate, in quel periodo lì secondo me il Milan, che era in una situazione oggettivamente complicata, ha saputo ricostruirsi un'autostima, una fiducia in se stesso, passo dopo passo, mattone dopo mattone, e secondo me quel tipo di contesto forse l'ha un po' aiutata. Sì. E poi c'è tutto il resto, c'è un lavoro straordinario, c'è stato un mercato importante, c'è un giocatore incredibile e oggi, sai, prima sei partite erano state sei partite con squadre così, fare il solito discorso, vincere tutte e sei non è normale, adesso la settima, il settimo sigillo, pur con tutte le assenze dell'Inter, ci dice qualcosa di preciso. Sì, ci dice qualcosa di molto più indicativo e importante. Poi amici miei, io vi voglio bene, però intanto parliamo di 41 gol, di cambi di tendenza, di influenza del pubblico, vi faccio notare che primo in classifica è appunto il Milan, un gol subito, miglior difesa di tutti i campionati europei, dimmi. Ti dico che adesso in questo nuovo calcio che c'è, ci sono i cosiddetti gol moderni, quelli che chiamo gol moderni, che saranno 7, 8, 10, 15 in più, perché c'è questa mania di cominciare a giocare a calcio dal portiere e spesso tu vedi gol, passaggio del portiere, intercetto, gol, e quindi questi sono i gol che prima 3-4 anni fa non c'erano, ma forse anche 2 anni fa, no? Proprio perché c'è questa, ormai se non cominci da dietro non sei un allenatore, secondo me è sbagliato, cioè forzare questo tipo di situazioni. Hai ragione, no? Nando, anche... hai ragione, ma ecco, l'abbiamo detto un sacco di volte. Facciamo così, chiamatemi Beccalossi, che non vedo l'ora di anticipare il confronto tra Orsi e Beccalossi, ecco, sulla questione gol moderni. Senti, voglio chiederti una cosa però prima, Nando, quanto ci hai messo a smettere di essere un giocatore di pallone e a diventare un allenatore? Non parlo di gavetta, parlo di un diverso modo di pensare. È difficile soprattutto se hai giocato a livelli così importanti, perché il coinvolgimento che hai avuto sicuramente non te lo dimentichi mai. Perché adesso tanti giocatori dicono no, preferisco l'allenatore perché è uno che ti fa stare bene. Che vuol dire voler far stare bene? Solitamente si riferiscono sempre a allenatori che sono stati ex giocatori, che sanno quali sono certe situazioni, però io penso che non ci si distacchi mai dall'essere stato giocatore, perché è difficile, è ovvio che infatti gli allenatori più vecchi, più anziani ci sono riusciti. In questo momento penso sia più difficile. Non so se parli di Pirlo, parli di qualcun altro. Parlo di Pirlo tanto per esempio, e poi parlo anche a converso di Gattuso, che ha fatto tutto il suo percorso, adesso è arrivato lì, ma possiamo parlare da Guardiola in giù, mi sembra che gli esempi siano tanti. Evaristo Beccalossi, buongiorno. Ciao, buon lunedì. Ciao, buon lunedì. Vabbè, ma neanche comincia così, però va. Sì, veramente, Becca. Come sono Fernando Becca. Orsi, ciao, grande Becca. Il lunedì lo soffro un po', Il lunedì mi fa male fin dalla scuola elementare, citiamo il signor Tommaso Paradiso. No, è il classico proprio, il giorno che non mi piace. Soprattutto perché casca il giorno dopo la domenica sera, guarda caso arriva sempre, il lunedì arriva sempre dopo la domenica sera. È prima del martedì. Bravo. Senti, adesso ti faccio spiegare, sai cosa sono i gol moderni? I gol moderni. Come sono? Aspetta, andando a spiegare un po'. I gol moderni, Beck, sono quelli che adesso, siccome c'è questa mania, questa forzatura di voler cominciare a giocare dal portiere, se tu vedi ogni domenica stanno 4-5 gol dove sbaglio del difensore, o sbaglio del portiere, intercetto, o rigore, o gol. Questi sono i gol moderni, no? Un po' di anni fa quando c'erano. Una bella palla lunga sull'attaccante, no? No, serviva anche a fare dei bei riposi, quindi rientravi e facevi i riposi. Adesso devi andare la pressione alta, chiudere l'ampiezza e via. Che non è quella che ti misurano al braccio, la pressione alta, eh. La pressione alta è quella che vai a fare. Senti Becker, ma questa valanga di gol che sono stati segnati, io non sono d'accordo, per esempio, al di là dei gol moderni, con lo zio Bergomi che dice che senza pubblico i difensori dormono un po'. Altri, Pirlo dice, il calcio italiano sta diventando offensivo ed europeo. Possiamo dire gli attaccanti magari sono meno pressione, ci sono quelli che soffrono, come dice Nando, la balaustra di San Siro. Che idea hai? Che idea ho? Okay. Ho l'impressione che sia tutto anomalo, perché noi diamo per scontato che è una partita di calcio, che non è cambiato niente, invece con la grande emergenza che abbiamo da parecchi mesi, ho la sensazione che non sei libero mentalmente, anche il fatto di giocare senza pubblico, senza pressione, o sento che qualcuno rende di più perché non c'è la pressione, è tutto anomalo. Quindi si vedono anche dei risultati strani, che sono convinto in un periodo normale tanti gol e certe partite non saltano fuori, quindi bisogna accettare il bene e il male in un momento dove cioè, tutti... non parliamo mai anche delle condizioni psicologiche, c'è gente lì a far tampone, poi deve aspettare se è negativo o positivo per giocare il giorno dopo, poi chi frequenti, dove vai, con chi stai, e noi siamo belli comodi seduti a commentare tutte queste cose sulla partita. E dietro, io ho vissuto le giovanili, l'Under 20, l'Under 21 con i miei, e vi assicuro che dietro ci sono delle persone a organizzare è tutto sballato, e quindi anche certi risultati in questo momento, secondo me, vanno presi così, senza fare neanche troppe analisi, perché è un periodo che è troppo anomalo. Sei d'accordo, no, anche le situazioni di bambola durante la partita. Io mi ricordo per esempio il Milan-Juve dell'anno scorso, il 4-2 con quella da 0-2 4-2 in pochissimi minuti. Queste situazioni qui le vediamo molto più spesso. Ieri l'abbiamo vista col Tottenham, che insomma si è fatto rimontare da 3-0 a 3-3 in maniera clamorosa. Succedono cose che di solito non accadevano. È come se il pubblico fosse uno stabilizzatore di certe situazioni, di certi livelli di da un lato forse impediva qualche giocata rischiata in più, e dall'altro aumentava la concentrazione complessiva. Insomma, tutto il meccanismo, secondo me, della partita è cambiato, e diciamo lo spettacolo trova addirittura giovamento da un certo punto di vista, al di là del fatto che poi uno stadio è più bello uno 0-0 con 80.000 persone di un 4-4. Bravo, uno 0-0 senza pubblico, invece bene o male 4-3, 5-2, certo, cioè senza pubblico, però se ci stanno i gol almeno ti diverti, no? No, ma questo senz'altro, e poi ci sono partite, cioè non sono soltanto i gol, sono proprio partite che hanno una loro storia, ci sono partite nella partita, mi sembra, molto più spesso, almeno quelle che sto commentando io, ma anche quelle che sto vedendo. Ci sono partite, anche Roma Benevento di ieri sera, a proposito di gol moderni, anche il rigore causato da Veretout, no? Roma Benevento ieri sera sono quattro partite in una. Non è tanto normale. Ci stiamo abituando, Beck, anche al fatto che ci sono, ha ragione Pierluigi, tante partite in una, complici cinque cambi eccetera, abbiamo una prima fase, una seconda fase e poi il finale, e quindi questo incasina un po' tutto il piano. Fugge alla logica, cioè è diventato completamente diverso, perché io sono uno che ha avuto la fortuna, insomma, di giocare davanti a, cioè già il pubblico è penalizzante, perché quando giochi devi avere chi ti sostiene, cioè vedere il derby di Milano senza pubblico e altre partite importanti veramente comincia a diventare triste. Ma io vado sull'esterno, perché ho visto l'esterno, cioè se tu devi preparare gli allenamenti insieme, essere in giro, l'altro non può perché deve aspettare il tampone, vai in ritiro, i piatti che arriva fuori dalla camera non devi lasciare, è tutta una cosa che la cosa bella era il rettangolo di gioco, e ho l'impressione che si fa fatica a mantenere la concentrazione. Non sono dei robot, quindi, sì. E quindi vedi tutti i risultati strani, perché anche l'Atalanta, che stava andando bene, è andata a Napoli, per carità, Napoli ha giocato benissimo, ma è stato di vincere, però anche i risultati in questo momento è difficile fare anche analisi. Sì, è per questo che forse la sconfitta dell'Inter nel derby non è un indicatore particolare, squadra... No, non è particolare, perché ho fatto una corta che casualmente ero a Milano. Cioè, si sono arrivati 3 o 4, bisogna aspettare quelli che arrivavano. Poi si è arrivato il risultato negativo dei tamponi, adesso c'è da fare quello per UEFA, per la CE. È tutto posso, una... posso dire, ovviamente sì. Interisti all'ascolto, Evaristo, su tutti, potete tranquillamente, vi do dei secondi per toccare ferro, cioè, per me l'Inter è la favorita del campionato. Lo dico, ma sì, l'ho promesso... Allora io credo che quest'anno si vedrà un campionato particolare, perché non è più come prima. Quindi ci sono delle squadre che ognuno di noi fa i pronostici. Io sono convinto che l'Inter può vincere il campionato. Però c'è l'Atalanta, c'è il Napoli. La Juve, tra l'altro, si sta rinnovando molto. Cioè, ha cambiato allenatore, quindi bisogna approfittare, perché dopo 9 anni che ha sempre vinto tutto, quindi bisogna essere lì. Però è tutto anomalo, sarà più equilibrato e non ci sarà, secondo me, niente di scontato. Nando, sei d'accordo con Pierluigi? Inter favorita del campionato? In un campionato così strano, è una delle favorite. In questa anomalia io ci metto anche il Napoli. E ci mettevo anche l'Atalanta. L'Atalanta, però domenica con il Napoli, sabato con il Napoli, è un po' ritornata quella che noi conoscevamo un po', no? Cioè grandi prestazioni, 3 o 4, 5, poi dopo quando c'è da fare il salto di qualità, per esempio l'Atalanta ha perso le partite in casa con squadre minori dove uno pensava che potesse. Ecco, quindi l'Atalanta deve crescere un po' in questo senso, di dare una continuità proprio, cioè non serve fare 6-2, 6-1, cioè delle volte puoi giocare anche in funzione della squadra avversaria. Il Napoli domenica, sabato è stato bravissimo, perché Gattuso gli ha preparato e gliel'ha incartata in maniera incredibile e ha vinto con merito. Però io dico che l'Inter e il Napoli in questo momento sono quelle che rispecchiano meglio un po' quello che il campionato può dare. Sì, lasciami fare una... il Napoli, la chiave del Napoli è stato l'ingresso di Osimhen a Parma, a capire. E abbiamo cominciato Il cambio modulo, esatto. E io mi ricordo che ci siamo sentiti addirittura il pomeriggio dopo Parma-Napoli, e lì secondo me è cambiata la dimensione del Napoli, perché che Osimhen fosse bravo non c'erano dubbi, lo sapevamo. Ci potrebbe essere un dubbio di adattamento, ma è un giocatore importante, voluto fortemente, pagato molto. Ma la cosa impressionante, secondo me, è l'utilità tattica e come riesce a dare profondità alla squadra, e come riesce a giocare per i compagni, a aprire spazi per i compagni. La profondità della rosa del Napoli è enorme. Detto questo, le variabili sono mille, quindi è chiaro che è un giochino mai come quest'anno così difficile da fare. Io credo che l'Inter sia davanti a Juve e Napoli, però ci metto anche l'Atalanta, che poi adesso può essere stata anche una giornata storta, vedremo, la favorita per il titolo. Certo, poi può succedere di tutto, perché insomma può succedere negli anni normali, figuriamoci in questo, dove non sembra esserci un padrone assoluto. Comunque sull'Atalanta, Pier, io te l'ho detto ieri, ma ho un mio pensiero particolare sulla partita dell'Atalanta, cioè onestamente Gattuso ha ragione quando dice un'altra squadra poteva prenderne 7-8, io credo che in questo momento Napoli fosse ingiocabile. Non dimentichiamo che ha fatto due settimane di ritiro prestagionale con tutti i giocatori che non sono andati in giro per le nazionali. Non ti faccio il commento su De Luca e della Bagna Cauda, cioè il fatto che sicuramente la battuta riuscita volendola fare, ma quello che dicevo l'altro giorno prima di questa giornata di campionato in qualche modo si è verificato, cioè, al netto del fatto che lì secondo me c'era stato un protocollo firmato 3 giorni prima e bisognava rispettare il protocollo, manca il movente. Il Napoli veramente di questo inizio di stagione ha ragione Gattuso, cioè a Torino in questo momento con capito, la Juve, ma io sono d'accordo, ma io sono d'accordo con te, poi no, la settimana qua, mancava il movente ma poi, se mancava il movente anche cioè bisognerebbe chiederlo anche della Laurentiis il movente, visto che aveva chiesto lui a Daniele alla Lega di rinviare la partita, quindi non lo so nemmeno io voglio chiedere un'ultima cosa a Evaristo e poi lo saluto. Cosa ne facciamo di Eriksen? È andata via la comunicazione, scusa, non ho sentito. Allora, poi ti mando anche un WhatsApp se vuoi, ma cosa ne facciamo di Eriksen? Cosa ne facciamo? Fa parte della rosa, ci si aspetta molto di più da lui, però io sono contrario quando sento dire bisogna trovargli la collocazione tattica, Conte deve far qua poche chiacchiere. Uno quando è forte va in campo e dimostra quello che vale. Eriksen si può dire che ci si aspetta di più, quindi questo è l'istinto, cioè chiaro, cioè ha qualità. Quando uno indossa con la maglia lì, insomma, deve tirarla fuori in un modo o nell'altro, con le buone o con le cattive. Lo aspetta quest'anno, ripeto, l'Inter secondo me ha una grande rosa, perché anche Conte ha la possibilità di scegliere, quindi chi rimane giù da tre non rimane giù da tre, metti, bisogna salire e proporti. Quindi deve darsi una svegliata lui, in sostanza. Secondo me sì, perché lo so, magari è cambiato, io sono antico con calcio, però quando c'erano problemi stavo lì, andavo in campo, anche se uno mi diceva, un allenatore diceva, ecco, vuoi giocare sulla fascia? No, io vado in mezzo, perché sulla fascia mi viene il raffreddore quando partono, e quindi si trova la sua collocazione e tira fuori le qualità per mettere in difficoltà l'allenatore, punto. Sì, questa si chiama personalità e probabilmente è la sintesi di tutto questo discorso, sì. No? Cioè, ha delle responsabilità, sì. Eric, non, questa situazione qui, lo dico sinceramente, io credo che Eriksen sia un valore, e l'ha dimostrato anche in nazionale i giorni scorsi, e continuo a pensare che Conte deve fare tutto quello che è nelle sue corde per provare a facilitare Eriksen a fare la differenza, perché un giocatore può fare la differenza, ma Eriksen al tempo stesso ha la sua responsabilità, cioè non è che sì, no. No, perché sennò si arriva addirittura a un ribaltamento che secondo me è sbagliato. Sì, Eriksen è stato preso, è un grande giocatore, io è un grande giocatore, sia, però deve dimostrarlo, l'ha dimostrato 6 giorni fa che è un grande giocatore, l'ha dimostrato nelle 2 partite in nazionale con Islanda e Inghilterra, se ce ne fosse stato bisogno, che è un grande giocatore, ma adesso aspetta lui. Qui però secondo me, ad esempio, nel derby va bene che entri una partita difficile e già fatta in gran parte, no, però è entrato in ciabatte onestamente nel derby. Grazie Becca. Ciao. Non so se è tornato Nando Orsi. Eccolo qui. No, perché ti volevo chiedere altre 2 cose, una sulla Juve e una sulla Lazio. Partiamo dalla Lazio, che continua a pensare si sia addormentata nello spogliatoio di Bergamo in quella partita. Dopo il lockdown si è addormentata lì sognando di essere campione d'Italia e poteva farcela, da lì è sparita. Ora bisogna vedere, cioè non è così scontato comunque che ripeta la stagione dell'anno scorso, non solo come squadra ma anche come rendimento individuale. Sì, allora diciamo che gli assenti pesano soprattutto su una squadra che non ha, secondo me, una grandissima rosa, nel senso che quest'anno hanno cercato di acquistare non titolari, ma hanno cercato di acquistare delle persone, dei giocatori che sostituissero i titolari, sì, eccetto Fares. Però secondo me un po' c'hai ragione, io l'ho commentata sabato, mi è sembrata una squadra vuota, mi è sembrata una squadra con pochi stimoli, e soprattutto i giocatori più importanti stanno facendo fatica. Forse hanno capito le squadre avversarie in che modo giocare a Lazio. Perché questo 3-5-2 ormai è veramente tanto, sono 4 anni, quindi sai, gli allenatori poi dopo ti contano tutto, e quindi la Lazio è diventata forse un po' prevedibile. Sì, quindi in questo è il momento in cui Simone Inzaghi deve ripensare qualcosa. Secondo me l'allenatore Simone deve fare un po' qualcosa, lui ha dato tantissimo in questi 4 anni, però da lui un colpo di genio me l'aspetto, mi aspetto qualcosa di diverso. Io continuo invece a pensare che sia piuttosto sottovalutata, non per i 5 gol di ieri sera, ma la Roma, Pierluigi, tu sai qual è il mio pensiero. La Roma secondo me ha del talento, questo io lo dico all'inizio della stagione, ha del talento soprattutto nei trequartisti, nei giocatori alle spalle di Dzeko. Se recupera, cioè se spazza via ogni nuvola dall'orizzonte e dal destino di Dzeko, oppure se si mette l'anima in pace, ne compra un altro, voglio dire, perché poi nessuno è insostituibile nella vita. Sento parlare di gennaio, di ipotesi partenza a gennaio. Voglio dire, Dzeko ieri sera ha dimostrato per l'ennesima volta quello che può dare, che comunque è tanto, no? In termini di qualità e di quantità, sul fronte offensivo. La Roma ha talento, ha secondo me disequilibrio, sai le mie discussioni con Trevisani, io non sono convinto che la Roma arriverà a settima, secondo me la Roma può far bene. Ma a livello di organico, io ti dico, a livello di organico la Roma a me piace più del Milan, onestamente, a livello di organico tutto compreso, e spazzate via le nuvole. Secondo me a livello di talento Dopodiché siamo secondo me in una linea che sta dietro a quella di Juve, Inter. A questo punto ci metterei il Napoli, perché il Napoli questa prima partita mi ha impressionato e sta in quella linea che comprende anche la Lazio e comprende anche l'Atalanta, con l'Atalanta che secondo me ha dei margini di crescita importanti. Detto questo, ripeto, l'anno è strano, pure il Milan francamente sottovalutarlo secondo me non si può più e non si deve, e non si deve, perché il Milan sta facendo le cose sensate, logiche, una dopo l'altra. Ha tenuto Pioli, si è ricompattato, ha fatto un buon mercato, si è affidato a Ibra, ha fatto un investimento e adesso ha i suoi piccoli casini da risolvere. Le dichiarazioni di Maldini per esempio sul rinnovo di Donnarumma non sono del tutto rassicuranti, però è anche vero che, come dicevo i giorni scorsi, questo Milan qui forse farà venire ancora più voglia a Donnarumma di rimanerci, perché è veramente un bellissimo posto in cui stare. Hai l'idea che sia qualcosa di importante in costruzione. Fammi vendere per chiudere con Nando il tuo pensiero, rivendo il tuo pensiero che ormai ho fatto mio sulla Juventus. Il Lodo Pardo che dice che la Juventus è in confusione, questo mi sembra chiaro, però è in confusione, Nando, non solo nello spartito, quale sarà la Juventus di Pirlo, gioco di Pirlo, fammelo dire bene. Il mio lodo è questo, che Pirlo ha ovviamente ha diritto a tutto il tempo del mondo e in queste due settimane ha potuto lavorare pochissimo. La cosa che io non capisco del tutto è, proprio perché c'è stato così poco tempo, mi sembra un po' tanti esperimenti, cioè la voglia di sorprendere in un momento come questo, forse affidarsi a una squadra un po' più collaudata, per esempio Cuadrado al primo minuto, è vero c'è la Champions, però insomma, aiutati che il Celta aiuta, mi verrebbe da dire, no? Sì, io vedendo la Juve ieri con Frabotte e con Portanova un po' mi sono... mi sono domandato perché Pirlo fa così. Ora, io non penso che in panchina ci fossero giocatori più scarsi di loro due. Cioè la Juventus era tanti anni che non metteva dei giocatori dal vivaio. Quanto tempo è? E forse in questo momento non era il momento giusto, perché in questo momento la Juventus, lui ha detto di Pirlo, è in costruzione. Se in costruzione, però intanto cerchiamo di fare i risultati. Tra l'altro lui è un allenatore nuovo. Secondo me per convincere devi fare la cosa normale. Bravo, devi mettere in campo la squadra normale, perché una squadra normale secondo me a Crotone vince, e quando vince a Crotone c'hai 2 punti in più, sei lì bene o male, e quindi un po' le critiche le cose, cioè se tu fai questo tipo di scelte, poi dopo se non ti vanno bene sei soggetto a delle critiche che alla Juventus in questo momento non servono. No, che potevi evitare, perfetto, grazie Nando, grazie. Ragazzi, ciao. Il Lodo Pardo spopola, quindi come vediamo anche se tra gli ascoltatori con cui parleremo subito dopo la borsa, 800 24 00 24, WhatsApp vocali 349 238 6666. Si segna di più perché non ci sono più difensori italiani. Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Tutti convocati. Genta, solo amichevoli il Milan, vero? Perché per il Milan sono amichevoli, per quelli altri no. 3 partite, 3 vittorie non valgono nulla. Amichevoli anche queste. Crotone che pareggia con la Juve e lo Spezia che pareggia con la Fiorentina. Allegri quando è arrivato aveva anche la rosa che aveva Conte. Stessa cosa per Sarri. Qui Pirlo, anche volendo, non può riproporre la squadra dell'anno scorso con i meccanismi dell'anno scorso, un po' per tante assenze e un po' perché il centrocampo degli ultimi anni, tolto Bentancur, è stato azzerato completamente. Il centrocampo è il reparto nevralgico. Questo Napoli può puntare allo scudetto? O magari vincere la UEFA, puntare di qualcosa di importante e vincerla? Convocati time, dunque, con WhatsApp e ascoltatori. Come li ho messi? C'è qualcuno? Come no? Pieno. Posso rispondere al volo a tutti e tre? Sì, devi. Allora, il primo ascoltatore ha ragione sul Milan. L'ho detto, cioè secondo me quando comincia a vincere una serie di partite, quindi anche prima del derby, se fai sei vittorie fra campionato e Europa League, anche se non sono sei vittorie contro il Real Madrid, la frequenza delle vittorie è tale da darti secondo me uno standing importante. Poi la vittoria del derby ovviamente ha rafforzato tutto questo. Il Napoli può vincere, sì, è chiaro che è un anno strano. Io ho fatto la previsione un istante fa, la confermo, cioè secondo me in termini di rosa l'Inter è la squadra più forte. Poi detto questo, è un anno in cui ci sono talmente tante variabili, cioè Milan ha giocato senza Ibra un po' di partite, la Juve ha giocato a Crotone senza Ronaldo, cioè cambia tutto, l'Inter ha giocato il derby senza sei giocatori, si è visto, soprattutto poi, dietro, non ho detto che avrebbe vinto, però no, si è visto, quindi le variabili sono tante. E la terza era... sul centrocampo della Juve, sì, ovviamente il centrocampo della Juve. Rispetto all'anno scorso, Pjanic in meno, grosso modo. Sì, Arthur in più. Arthur in più, McKennie in più, e insomma, sì, non è fuori, poi cambiato. Che è fuori, però non è cambiato tantissimo. Io, allora, penso che la Juve dovesse fare un po' di restyling al di là dello scarso feeling tra Sarri e l'ambiente, che non è stato un dettaglio, è stato un elemento vero, però. Poi anche la rosa può essere migliorata, questo è indiscutibile, e soprattutto a centrocampo secondo me la Juve deve fare qualcosa. Detto questo, occhio a De Profundis, perché Pirlo, proprio perché ha delle idee nuove, va misurato nel medio-lungo periodo, e perché comunque la guerra di questa squadra rimane. No, ma poi siamo veramente agli inizi, inizia adesso con le coppe europee. All'inizio dell'inizio. Tony, buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare del nuovo DPCM. Io sono i bambini. Sì. Ieri eravamo tutti lì attenti ed è stato un po' brutto dire abbiamo finito di giocare. Uno, perché forse gli abbiamo tolto, non forse, abbiamo tolto i diritti dello sport. Due, penso che così le società falliscono tutte. Tre, come si fa a far fare un allenamento individuale? Cioè, vuol dire che la società apre un campo sportivo con le luci e tutto per far fare solo corsetta senza contatti, senza niente. Cioè, non capisco perché questa volta abbiano preso questa decisione. O fermi anche il professionismo, da dove attinge alle scuole calcio, perché fermare il dilettantismo? Non capisco. Non fa salire le curve epidemiologiche. Voi cosa ne pensate? Vorrei sapere anche un vostro parere. Io credo che sia difficile discostarsi dal suo pensiero, detto che in un momento come questo ognuno ha le sue rimostranze legittime, anche in gran parte. Sì. No? Non si possono fare i convegni, ma perché i convegni? Ci sono i mezzi pubblici. Non si può fare lo sport perché guardiamo cosa succede nelle piazze. Insomma, sì, l'aspetto più generale, se vuoi politico, della vicenda, al di là del fatto che è un casino, non è facile neanche governare, non è facile niente, quindi noi stiamo qua e parliamo alla radio, quindi questo ce lo dobbiamo ricordare sempre. Però ecco, l'aspetto di ieri sera secondo me è che anche per esempio nel rapporto con lo sport va benissimo tutto, le palestre, che vuol dire le palestre? Ce ne sono alcune che rispettano, alcune che non rispettano, quindi diamo una settimana. Allora, o le teniamo aperte e vigileremo e multeremo chi non è in grado di conservare, cioè mi sembra ci sia tutta una serie di cose. Poi per carità, di fronte alla salute tutto passa in secondo piano, no? Certo. Però anche le generalizzazioni, cioè diventa difficile dire chiudiamo tutto perché qualcuno non fa le cose per bene. Se ci fosse un sistema di tracciamenti, tamponi e tutto che funziona come un orologio svizzero, uno sacrificio lo fa anche più facilmente, no? Altrimenti il rischio è che togliamo i bambini da scuola, va bene, ok, faccio per dirti, sappiamo che è una delle facoltà che è stata comunque lasciata agli enti locali, e poi magari vanno in giro ed è peggio. Cioè, ciò che dobbiamo sottolineare, non so se hai letto cosa ha scritto oggi Zazzaroni su Core Sport, lo sport è scuola, perché comunque si tende un po' a sottovalutare anche il ruolo che ha lo sport, non solo professionista, nella vita di è la grande battaglia dei ragazzi. Gabriele, Gabriele, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io volevo parlare di Eriksen. sì, voglio spezzare una lancia a favore di questo giocatore. Cioè, voi sono anche un pochettino arrabbiato con voi perché non dite mai una cosa. Cioè, Eriksen fino adesso ha giocato 10 minuti ogni partita. Come può un giocatore esprimersi in 10 minuti? Ieri sera l'ha detto anche Biasin, no, sulla trasmissione. È assurdo, no? Non so perché voi ve la prendiate con questo giocatore dicendo che non mette. Non ce la prendiamo mica con Eriksen. Ho fatto un tweet l'altro giorno per Eriksen, anzi vi svelo una cosa, ce l'ho fantacalcio. Non c'è persona, a parte le battute, no, ce l'ho fantacalcio veramente. Il giocatore mi piace tantissimo. Per me l'Inter ha fatto un grande colpo, l'ha preso a un prezzo sfruttando il fatto che stava andando in scadenza contrattuale. Quindi questo sì, no, guarda, diciamo che l'Inter e Eriksen Pier sono una bella coppia, ma sembra che non si prendano. Detto questo non penso che Conte sia un masochista a cui sta sulle scatole Eriksen e non lo fa giocare perché gli sta antipatico. Penso che anche Eriksen abbia le sue responsabilità, debba dare di più. L'altro giorno nel derby è vero, in una situazione difficile, ma non è entrato bene. No, è entrato in ciabatte, questo però possiamo dirlo tutti insieme in coro, è entrato male nel derby, è entrato male in altre situazioni, poi se mi dici deve giocare dall'inizio, trova continuità, vabbè, allora parliamone. Matteo da Milano al volo e poi traffico e poi moto. Sì, buon pomeriggio, io sono un fan della difesa, mi piacciono i movimenti della difesa, i miei idoli da bambino erano Claudio Gentile, poi da ragazzo Paolo Montero, ma anche Baresi, Bergomi, persino Graziano Pizzi. Quindi non capisco questi risultati da pallamano e soprattutto questi tributi che fate a questi risultati di pallamano da baseball. Quando ero ragazzo c'era uno come Gianni Brera, oggi giornalisti che stimo come voi due tra l'altro, tutti a favore di queste goleade. Grazie. Grazie a lei, Matteo. Io non so, ragazzi, non è che sono a favore delle goleade, anzi ho avuto modo più volte di dire che la cosa più bella di una partita di calcio è l'equilibrio, per cui preferisco uno 0-0 con occasioni, ovviamente, non noioso, a quella partita incerta da telecronista fino al 90esimo piuttosto che un 4-0 dopo mezz'ora. Però voglio dire che ci siano delle cose strane in questo calcio del lockdown è indiscutibile, e che partite per esempio ieri come Bologna-Sassuolo o Udinese-Parma o la stessa Roma-Benevento siano state partite divertenti dal punto di vista dell'entertainment, questo è indiscutibile. Poi che questo avvenga attraverso degli errori, questo è altrettanto indiscutibile. Per sì, cui, no, noi siamo grandissimi tifosi dell'incertezza, infatti, sì, esatto. L'incertezza è la parola sono chiave che adesso replico per quanto proprio riguarda... Perché non se ne può fregare di meno. È bravo, esatto. Se uno tifa per lo spettacolo, è chiaro che è contento se il campionato è equilibrato, poi lo vince. Allora, lo vince. Io credo che lo spettacolo fine a se stesso si va al circo o al cinema. Se uno vuol vedere dello sport, se il senso è l'equilibrio, cosa che c'è nel moto mondiale di cui parleremo tra un attimo. Ciao Pier, grazie. Ciao, a domani. Buono Yulm, ciao, vi saluto. Ciao. Buono Yulm, traffico. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Carletto Pernat, buongiorno. Buongiorno d'Aragon. Ragazzi, qui c'è sole, sta bene. E gira con te una piaga, dimmelo ancora. L'altra volta gira il coltello nella piaga, ti dico. Abbiamo appena finito di dire con Pierluigi Paolo, rispondendo agli ascoltatori, che la parola magica nello sport è equilibrio. Ora, mai come quest'anno c'è equilibrio, sì, nel modo mondiale, mai vista, e non si vedrà credo mai più una roba così. No, ma la faccia dell'equilibrio qui qualcosa anche di più. Ma sai, è un campionato strano, è tutto dettato dalle tre gare consecutive che si fanno, soprattutto Carlo, nei periodi dove non si correva in questi circuiti, quindi le difficoltà sono sicuramente le gomme, perché anche la Michelin le gomme le prepara due mesi prima, Carlo, quindi sai per quale temperature cambiano, e i piloti, non dimentichiamo, hanno uno stress di tre gare consecutive che non l'hanno mai fatto in vita loro, e tanto uguale sono i meccanici e i tecnici, per cui è un campionato anomalo, e secondo me tutto quello che sta succedendo è figlio di tutta questa situazione, sicuramente, ne sono convinto. Guarda. Sì, io dopo la gara di ieri, che pure ha spostato pochissimi in termini di stacchi in classifica, come era logico, continuo a pensare che la grande favorita sia quella, la moto che c'è in testa in questo momento al mondiale per la prima volta, con un pilota che, guarda caso, non ha vinto fin qui ancora nessuna corsa, ed è Mir e della Suzuki. Sì, beh, è chiaro che la gara di ieri ha dato questo esito, sono d'accordo con te, anche considerando il fatto che il suo compagno di squadra Rins se non faceva quelle due asinate quest'anno, io le chiamo asinate ma lo sono, di Le Mans e di Austria, sarebbe lì a giocarsi anche lui e il titolo sarebbe secondo in classifica, mettigli 40 punti in più e vedi com'è. È chiaro che in questo momento la Suzuki è quella che interpreta meglio i problemi del freddo, delle piste, è una moto molto equilibrata, è una moto che sulla ciclistica ha sempre avuto la sua forza, ha aumentato un po' la velocità e ha due piloti giovani, ma soprattutto a un Mir che, sai, lì bisogna dare atto a Davide Brivio che è stato bravissimo, perché sai, è facile prendere i piloti e dire è arrivato, è difficile prenderli quando hai due posti e li paghi tanto, perché sai, la Suzuki li paga molto, i giovani, Mir l'ha pagato più di un milione e mezzo, sì. E molti avevano detto, ma cosa spende tutti quei soldi per un pilota che non ha ancora fatto niente, mi ricordo, l'avevano detto tutti, me compreso. Bravo caro, e lo stesso è valso per Rins ed è valso per Vignales prima, perché è nato un Suzuki, no? Quindi bravo, con un budget alto, sai, dei rischi, però sai, un bel ambiente quello della Suzuki, a partire dal Giappone a finire al team di Davide col fratello, è una famiglia, si sta bene, i piloti danno quello che hanno e soprattutto ho visto Rins molto motivato, dicendo che poi non è un problema il suo compagno di squadra se lo batte, è una motivazione in più, sì, e questa sì, è una bella sì. frase. E questo è importante, secondo me hai ragione tu, il favorito oggi teoricamente è Mir con la Suzuki, sì, che sta vincendo alla Dovizioso, cioè come con i piazzamenti, perché non ha ancora vinto una corsa, paradossalmente in un mondiale senza Marquez in cui il favorito era Dovizioso, ieri ha accorciato il Dovi in, se vogliamo guardare adesso, meno 15 dal primo posto, ma sì. non ti dà la sensazione di essere pronto all'attacco al potere. La penso come te, però ci sono due cose secondo me importanti. Credo che la Ducati debba ora fare un passo decisivo, cioè mettere tutte le sue forze su Dovizioso, perché in questo momento hai l'unica chance di poterti ancora giocare mondiale. La sfuriata di Dovi, no, del guanto tirato, sì. io la vedo come una cosa positiva. È difficile che Dovi faccia quelle cose lì, anzi non l'ha mai fatte, quindi vuol dire che un po' di orgoglio e un po' di voglia dentro di lui è rinata, secondo me. E se la Ducati, invece che seguire un po' tanti piloti in questo momento in un certo modo, concentrasse tutto su Dovi, credo che una pezza si potrebbe ancora mettere, perché secondo me uno scade d'orgoglio Dovi lo sta avendo in questo momento. Sì, bisogna vedere se poi gli altri sono d'accordo, perché vai a dire a Petrucci che l'anno prossimo guiderà un'altra moto che è stato esautorato già da tempo, che deve tirargli la volata, eccetera eccetera eccetera. Io credo che... ma io parlo, sai Carlo, più dal punto di vista tecnico, non tanto dal punto di vista caratteriale, sai, l'ambiente della Ducati in questo momento non è certo quello per vincere, non è il migliore. Lì con un macete tagli l'aria, come ti dicevo l'altra volta, però se tu concentri la tecnica e tutto lo sviluppo e un certo numero di persone in più, forse ci metti ancora una pezza, ne sono convinto. Non è di dare ordini di scuderia o no, non si possono dare, dai, quando mandi via due piloti ti mandano loro a quel paese, altro che ordini di scuderia, l'esperienza me lo insegna, dai Carlo. Dimmi un'ultima cosa Carletto, potresti diventare campione del mondo come manager un'altra volta? Ma guarda, ti dico la verità, ci sono due possibilità. Una di Enea, che sicuramente ha fatto Basterini, un garone. Primo nel moto mondiale, moto 2. Mi spiace molto delle cadute di Petrucci, di Bezzecchi e di Marini, perché Bezzecchi è caduto quando stava vincendo. Marini forse non era in forma per via dell'incidente che ha avuto la scorsa settimana. Però sai, chi cade purtroppo ha sempre torto. Enea ha fatto una gran gara, ha fatto un suo passo all'ultimo a Martin, che vale il prezzo del biglietto. Ci diverte, quindi ce la possiamo giocare. Non ti dimenticare che ci sono dei piloti come Bezzecchi e Di Gianantonio che stanno andando molto forte, così sono gli italiani, ed è un bene per noi per il futuro. E secondo me in piedi anche nel mondiale di Avorino, sì, perché col semaforo verde con una macchina che c'è il semaforo verde non vai, e dietro strombazzano, perché lui è verde, non ha avuto niente, ha tutti i tamponi verdi, penso che sia il primo esempio di uno che che non corre pur essendo negativo. È venuto a contatto con un positivo e quindi l'hanno bloccato per una gara nonostante tutti i tamponi con semaforo verde. Grazie Carletto, ti abbraccio. Ciao, alla prossima. Ciao Carlo Pernat. Allora ringrazio Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, tutti convocati domani alle 2. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani, enjoy! Saluti! Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it